appunto per quello. Quanti canali ha quel Jetson? 271. Ha la voglia canali. Anche il microfono l'M500. Adesso devo chiedere quanto ne vuole e mi se lo buscio. Ma da tavola? Sì, da tavolo. Buono, cazzo, vuoi spingere? Sì, per il Jackson me lo prendo quello. Per il microfono con cosa? Con l'apparecchio. Ti avevo appunto detto io, se a casa ivi avevate venduto a pacchio il microfono. Ti era appunto 100 euro e ciccia. Adesso vediamo per incasso. Ci vuole meno di tiro. Non in casa adesso di partecipare con la roba, non mi ha pagato. Vabbè che lui sta perseguitando uno che era 1000 euro, quindi. Vabbè, allora. Lascialo per cimentare. Andare. Adesso Popo, radio nuove prestazioni, te ne sono entrate in mano, no? Nulla? Nulla, io stavo qualcosa esaurito ieri al di là di quel capo di cose, delle PD, gli ho detto, boh. Ancora cose serie, gli ho detto. Grandinaldi. E sono fatti adesso, devo trovare da qualcuno che ne prendi tu, li trovi, poi li fai sentire qualcun altro e eccetera, eccetera, gli ho detto, boh. Anticipa tu. Cosa puoi anticipare? Pure una comincia nel coso, boh, allora ti dica fa come vuoi, ho detto. Infatti, no, non va a capo, no. Poi, non c'è testa. Arriva lo stesso, cazzo, doveva portare quello, doveva portare l'altro, non ha portato niente. Chi? Mario. Ehi, Mario sta parlando. Ah, stai parlando di Mario? Ehi, sta parlando di Mario, che non ha avviato ancora nulla. Capito? Io non tipo questi gli LPD già l'altro giorno per andare a cosa, a caccia. E non li ho avviati. E li voglio pagare i contanti. Voi avete fatto la risoluzione, ho detto, guarda che cosa gli ho detto. A me lo trovi un paio di giorni più, me li arrivo a loro, se la gente li vuole, se li piacciono, direi, se sono finiti, dai soldi e li rubi su internet, gli ho detto. Poi non va a capo. Ma ho visto che qualche apparato ce l'ha Mario, Sì, VHF di quelli antichi sono, ho delle valigie. Non è spagnolo di quei VHF. No, c'è degli apparecchi piccolari vecchi che vanno in Uma, non servono a niente. No, perché tu mi hai detto dovevo andare a magazzino per qualcosa, il magazzino di Baracchino ce l'aveva. Però dicevo, dove dovevo andare? È passato già 3 mesi e ancora andavi. C'è un sacco di roba in magazzino, ma neanche lui sa dove c'è calla, figurati. Se la vera roba già, io devo mettersi con la roba su internet, se la vai di vendere, se la detto, se la fai in magazzino, ti stavo girando, gli ho detto, poi quando vai a vendere la roba nessuno. Allora, lui deve trovare gli amici, dire, amici, ho questo, ti interessa, io, anche a basso costo, basta che si sbucchi, c'è di via, capito? Se no c'era tutto materiale fermo lì, si prateggia e si deve rappare tutto la buccia. E appunto per quello. Capito. Ah, non va a capo Mario, via. E quando rimane il caso lì già c'è di vendere, non ti preoccupare. Gli arriverà in mente di vendersi qualche cosa. Ehi, guardi lui. Dovrebbe chiamare, dovrebbe darmi lì soldi lui. Avrei fatto lavoro per lui. Io farò lavoro per lui e quell'altro testa di chicchiera gli voleva dare solo 30 euro per il lavoro che è stato fatto. Ho detto vai di andare a cagare, gli ho detto vai. Ci voglio 60 euro per quel lavoro che abbiamo fatto. Se ho detto salgo su e faccio tutto io, poi voglio vedere come faccio a guardare il televisore. Gli faccio accendere la ragazza russa e si guarda. tenere sempre lo stesso vizio, per carità. Sì, secondo Pitta voglio essere tranquillo, perseguita con la roba, gli fa passare la voglia di fare così, te lo dico io. Beh, certo, non sono cose belle, non sono cose belle. Carissimo Antonello, non so cosa andare bene, uno che lavora deve essere pagato e basta. Sì, la gente ce l'ha un bel così, mi vuole fargli come lavoro e una boia a pagare fa il pezzo lui, non esiste così, capito? Beh, non esiste, no, non deve esistere. Io. Ma non ci sta bene, non è? Noi ci abbiamo caldo gli altri. A Milano c'è una neve. Meglio loro. No, noi stiamo bene, certo. Ci sono 15 gradi pure, 16 forse. No, si sta bene. Poi c'è una bella andare in campagna, cucinare le bistecche, bere il vino. E poi quando sei bello teccio, ti sdrai al sole come le lucciole. E io guido io. Ciao Claudio! Andavi a Torre, che ci vuoi qua. Cosa ci vuoi fa? Ehi. Beh, Antonio, mi muovo a fare qualcosa, esci no, no, per via. A Ioppa, lo voglio via. Ah, ci sentiamo più tardi, Antonio. Ciao, Antonio. Via, ciao. Alle prossime. E io, ciao Antonio, ciao. Che vabbè fare? Ciao, quello gioco di musica a me. Ciao Antonio.